caso, a un certo punto ha detto proprio c'era lo stacco e ha detto la roba, coca, dai, senza, ha detto Cristo, una roba del genere, molto, ha detto una roba che suonava non così, ho capito un cazzo.